prendere il G58, il G58 va bene per, è un guasciale che va bene per pochi litri, poche cose, capito? Ma uno non può pretendere con il G58 di attaccarle a un lineare a 300 watt e pretendere che sia in perfetto accordo. Va in disaccordo subito perché è un cavo ad alta perdita, capito? Quindi non va bene, non va assolutamente bene, ma neanche gli spezzoni si fanno con il G58, si usa sempre il cavo guasciale grosso, buono, e che ti consenta di avere meno perdita possibile, perché per chi non lo sa, anche la saturazione degli amplificatori, che qualcuno dice ma sto usando pochi watt d'ingresso qui e là, è sempre tutto causato dal cavo che si usa, dallo spezzone che hai, dai PL che stai usando, da tutto l'insieme delle cose, dagli strumenti che ci hai attaccato, lineare, rosmetro, wattimetro, accordatore, andare a rivirovare anch'io, hai già perso tutto l'accordo che hai, capito? Sempre diretti si usano gli amplificatori, io non ne ho mai usato strumenti, a me non me ne ha fatti nulla. Cosa devo vedere? A cosa mi serve? Sole stazionaria non ne ho, io uso il BV131 a 200 watt con un 1 stazionario, senza strumento, perché la radio me lo segna, gli strumenti che ho nelle radio segnano anche le stazionarie, quindi mi affido a quelli e basta, cosa devi stare a collegare, a fare, è tutto perdita, non guadagno. Lo so, il cavo è tutto, ce lo so, vabbè, purtroppo, ma io me ne sono accorto perché quando provando, che sono nati, diciamo, i problemi anche dell'antenna, che ha surriscaldato, diciamo, il filo lì del connettore che Fabrizio ha cambiato, è nato perché sotto c'avevo l'RG58, ho tirato Giorgino, e Giorgino è andato fin dove è andato, poi ho fatto qualche passaggio in banda laterale, già lo sai quanto sputa fuori, quindi insomma ha danneggiato quanto c'era. E il cavo vuol dire molto, vuol dire tantissimo, per me diciamo è la base principale il cavo, perché non ti crea problemi, e a parte sulla modulazione stazionaria e quanto c'è, tutto lì. Vado, ti lascio che siamo quasi pronti alla carica, si coincida più tardi, se no alle prossime minute. Preparato, poi quando arriva l'amplificatore non faccio altro che attaccare tutto, elimino i il contattore d'antenna, lavoriamo diretto e problemi non ce ne sono. Se no, tra esempio, tira e molla. Sto provando la radio di Mario, la volante di Mario Mall, console con col Thunder più 2. E va bene, va benissimo. Ma hai detto che c'era problemi con la radio, no? Alternata c'aveva, sì. C'aveva un po' di rumori di alternata e ho smontato il trasformatore. L'ho pulito, l'ho ripiazzato, adesso non lo fa più. È la stessa cosa da fare anche a quel SIM, uguale. A quel SIM. Ma sono tutti così, quelli a 220, quando li lasci molto fermi, iniziano a ronzare, a fare, allora devi smontare, pulire, ripiazzare, capito? E c'hanno dei gommini anche che mantengono, che isolano il trasformatore, e allora bisogna metterli sotto, e sarò uno, li sto facendo. Ho fatto, questo l'avevo già fatto l'altra volta, adesso devo fare quello che mi hanno mandato, poi devo fare lo standard, che ce n'è un altro anche, che fa lo stesso problema a base, e anche quello lì fa ronza, e già, Radio Vicio, e il DAC non era così, adesso già esce bene, ma prima era, faceva impressione, ho tutto, era completamente tutti i piedi del valve, tutti ossidati, trasformatore, tutto casino, capito? Sì, lo stesso difetto che fanno anche i Galaxy. Una volta che si colano le lette del trasformatore, c'è quello spray, Natalia l'avevo usato per fare una cera, qualche cosa del genere, che li distacco da quell'altro e non li fa più fare il rumore. Sì, sì, purtroppo quando le varie sono vecchie cosa fai? Sono belle, però devi fare un po' di manutenzione, se no non me li sto facendo. In modo che siano tutti a posto, capito? L'ho già scoperto quel difetto di quella là, non è il microfono, ma è proprio il trasformatore, che lo metti lì che fa e te lo porta dentro quando schiacci il PTT. E che ci vuoi va? Purtroppo quando le radio sono vecchie bisogna mandarle in pensione, invece ne stiamo sempre lì a giocare, a fare, giusto per dire che ce li abbiamo. No, questa è già esteticamente nuova e bella, quindi l'ho messa a posto, anche gli altri che ho sono tutte buone. E vabbè. E domani lavori, no? No, è cattivo. Guarda te. Allora, lunedì riprendo la tintonella di sera. Lunedì? Da mercoledì? Vabbè, volevo dire mercoledì. Riprendo la tintonella anche di sera, finita la pacca. Ehi, vabbè, ti sei riposato. No, io domani mattina sono reperibile, faccio un giretto, ma viene il mio collega a prendermi. Lui. Facciamo un controllino, ci prendiamo un caffè e poi ce ne rientriamo. Anche perché sto cacchio di tempo, ma dimmi, cioè. Sembrava che si era rimesso tutto a posto, passata l'acqua anche oggi. Ma se sino a venerdì sono andato a fare un giro in moto e a Trattamona ci stavamo facendo il bagno, c'era la spiaggia come l'estate, tutta piena di gente, tutti in costume. Adesso se tu vai a controllare uno per uno sono tutti gatti con raffreddore, tutti gatti gessati. No, c'è un'umidità pazzesca, io me ne accorgo poi dalla cervicale. È allucinante, capito? C'è una umidità pazzesca e poi questo tempo, anche stamattina io ero all'aereo e stavo facendo un interventino, ero maniche corte. Però poi mi ho messo il giubbottino leggero estivo perché sentivo che non c'era sole, non c'era niente, freddo non c'era, però sentivo questa umidità, questa cosa che non andava bene. Vabbè, a Urbia è andato così, cara. A Urbia sì. E il preventivo mi ha fatto il preventivo, adesso devo passare al codificente per farglielo vedere perché ha detto che non ci credeva. E allora? Per carità, ma mi è così antipatico quell'uomo, per carità. Guarda, dalla volta che io ho comprato il chimico e me l'ha dato, era difettoso, non perché sia colpa sua, ma perché l'ho portato quando era in garanzia, mischiava l'olio con il liquido, lui diceva di no, entravo il dito, glielo facevo durare, no, non c'era il dolore di olio, io l'ho sentito. Beh, fatto sta che ho ingrippato, gli ho provato la moto, mi ha fatto il motore e non me l'ha fatto in garanzia perché la garanzia era già scaduta. Sì, ma quando volete la portate? Ma non è per quello, non è per quello. E ho dovuto pagare 1.000 euro per rifare il motore. Alla fine poi me la sono venduta perché quando la moto comincia così, l'ho aggiustata, gli ho fatto fare un foglio che diceva che aveva rifatto in tutto il motore, tutto quanto. Quando l'ho venduta gli ho fatto vedere quel foglio, al tipo ho detto se ha problemi, ecco questo qui è il foglio. Ah, va bene, va bene. E ho venduto a 5.000 euro e via. 5.000 euro, ma non era ancora lì quando l'hai venduto un chimico, mi ricordo qual era, col 150. Ah, no, voglio dire, va, volevo dire 5 milioni. Mi ricordo perché già te l'ho conosciuto quello io. Io avevo preso quella di Franco, 250 lo stesso. Avevo preso la prima, poi l'altra ancora e vabbè. Oh, è che c'è una differenza allucinante, capito? Lui dice, ma io sono concessionario ufficiale di cosa sei tu concessionario? Se c'è la concessionaria Honda e anche Orbia o la tua e hanno i prezzi completamente diversi da te, perché tu sei ufficiale? Di cosa sei ufficiale? E infatti adesso, domani è chiuso, mercoledì ci passo e le faccio avere il preventivo che mi ha fatto la Honda di Orbia, ci sono 1.500 euro di differenza. Quella lì ti piace, là? No, un ibrido, quello nuovo, il 700. Ah, capo. Interessante che si accomoda nella guida. Quello lì, a me le moto della strada mi piacciono, ma la guida non è molto comoda. Invece, in quelle vie è più comoda la guida. No, è qua, se tu lo vedi uguale, c'è bello Altimax, non cambia niente, Altimax è quello nuovo. Capito? Siccome c'era se ti ricordi, era uscita la voce che la Yamaha volesse fare il 700, capito, per restare dietro alla Honda, no? Che ha fatto, qual è quell'800, come si chiama quell'800? Girera, non è la Honda. Era la Girera. Invece pare che non abbiano trovato, insomma, come il sistema. E quindi la Honda ha tirato fuori un ibrido che praticamente ha il muso uguale gemello al T-Max, preciso identico, e il di dietro è uguale all'Hornet, uguale preciso. Le ruote sono leggermente più alte, grosse, da moto da strada, come può essere l'Hornet, leggermente una via di mezzo, un po' più alte del T-Max, però stessa grossezza, così. È molto molto bella, veramente molto bella. Ed è un 700, capito? Sempre cardanico, sempre molto bello, molto bello, un ibrido, un incrocio, tra un rinoceronte e un macello di Gesser. Tra uno scooterone e una moto da strada, ma fammi capire, com'è, a marce o acceleratore? No, è uguale a T-Max, sempre a cambio sequenziale, capito? Sempre di rappresa diretta, come T-Max, uguale. C'è rapporti molto più lunghi, ha una velocità molto più elevata e credo che sia la stessa velocità dell'800 della Girera, una cosa del genere, quindi 500 all'ora, però è una bellissima moto, veramente molto molto bella, come strumentazione, estetica, tutto, però è una normale, con scooterone, già, solo è un ibrido, è un incrocio tra moto da strada e scooterone, il muso è del T-Maxi, il culo della moto, proprio di dietro della moto, anche le stesse maniglie del, per mantenersi come si siede dietro, stesso sedile, uguale, preciso identico, solo che sollevato, come proprio lo metti con la targa abbassata, molto bella. Ho capito. È un nuovo disegno. Andare. È che tu c'hai questi dolori, quando andi in moto, già lo sai come no. Io oggi ho fatto un bello strappo, ho messo la mano sul volante per salire sul furgone, ho messo il piede sullo scalino e ho scivolato col piede, con tutto il peso sono andato a tenermi col braccio che avevo sul volante e mi sono fatto male al polso, alla scapola, non riuscivo manco a muovere il braccio, adesso meno male mi ho messo con la pomata e sono riuscito, ma sicuramente è uno strappo nervoso più che altro, però mi ha fatto un bel male, ha fatto tra proprio un rumore un bel forte, mi ha fatto leva proprio nel braccio. E io ho la cervicale, c'è un casino. Pediatrite, infatti, pediatrite, cervicale. Vabbè. Ui. No, ma è uguale già. Il muso del T-Max è secondo me il di dietro e dell'Overti, proprio perché c'ha le stesse frecce, quindi davanti se le incassate nel cupolino, no? Come il T-Max. Mentre dietro c'ha le due frecce, che sono uguali a quelle che io avevo all'Hornet, proprio uguale dietro. Infatti ha detto, boh, ma che moto è io? E poi me l'ha spiegato, lui è un ibrido nato adesso, un nuovo disegno della Honda, e dice che è una bella bestiolina, c'ha 95 cavalli, quindi ha praticamente 10 cavalli in meno dell'Hornet. Dice che vale meno dell'Hornet, quindi va bene. Ok, va bene. Cosa stavo dicendo? Un'altra gubba, un'altra cosa. Che cazzo ci avevi 168 ore, già finito hai? Ne ho fatto un bel po', ne avevo fatto già da prima, vabbè, i soliti permessi che chiedi per le visite, per le cose, e poi in più quello che era avanzato l'ho finito in tutto, capito? 168, 180 ore sono, ma già ho fatto i conti, già mi ho scritto tutto, già risulta tutto. Vabbè. Già si vuole fare, dai. Ma voi già, io vado a mangiare un boccone. Se ci siete, ci sentiamo dopo, dai. Quindi questo qua va bene, allora, con solo il primo. Gli altri vanno tutte bene, devo solo sistemare quell'altra che mi hanno mandato. Va bene, ci sentiamo dopo già, vado a mangiare. A frappè. E anche a me mi dovrebbe toccare, dai, adesso vado anche. Sentirami su. Ai. Buono. Mangiami poco, No, non è troppo. Stamattina già l'ho preso, già l'ho gustato. Ma è troppo buono, cazzo. Se hai gusto un po' ti devi mangiare un bel. È uno dei pochi dolci che mi piace. Non è che ne mangio molti dolci, ma tirami su, mi piace forte. Se non lui. La mia moglie, mamma mia, sono agonite, no, non ne può mangiare, però a volte lo mangio lo stesso. Va bene, già dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao. Hola. Io mi dici, cambio. Bombulus. Attenzione, mi senti? Eia, ti sento. Ti sentivo migliorare però. Non lo posso usare, non lo posso. basso col baracchino. Ma non stai uscendo basso, stai uscendo, dicendo basso qua. Perché l'ho messo a minimo. Aspetta. Guarda un po'. Tu Maria, ogni acquare è mai gatto. Dicendo un po' meglio. Perché ce l'ho a minimo, ero a minimo del minimo, a un watt, adesso sono a 2.5. Quasi 3 per adesso. Ti volevo dire, lei ci può usare USB normale, lì possiamo entrare. No, ma non lo posso usare io la sera. Ah, da problemi? Non credo io, che figlia come una bestia. Cazzo, andrà a portare a rompere il cazzo. Guarda, ti sentivo una meraviglia, guarda, sembravi a fianco a me. Non lo so, ma non lo posso utilizzare. Massimo in FM, Massimo, ma vuoi provare in FM? Come vuoi, no, ma ero girato, stavo girando così per caso, mi sto facendo tutti i canali. Ho beccato questo e volevo provare a vedere se mi sentiva. Ce l'hai l'FM? Sì. Sempre in questo canale o in un altro? Questo canale è dato troppo piattoso, Vai! Vedi un po'. Ma ti sento meglio, tu non mi senti? Tutto è fortissimo, è forte e chiaro. Ora siamo così, dai. Thank you. so, fortunatamente non ha più punto. Hola, 1, 2, 3, 4, prova radio. Sarebbe anche ora. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Quello già ben messo, diciamo, esteticamente. Ah, scusa un attimo, persone. E beh, come ti è sembrato una brava persona? Come ti è sembrato così? Sì, una bravissima persona, non c'è problema. Abbastanza anche molto gentile, dai. Non c'è problema. Appena cambia il tempo e ho detto che appunto ci mettiamo d'accordo e me lo fa, dai, non c'è problema. Sì, Antonio, avete un singolo base SSB50, se vai a vederlo al computer, è una grandissima radio degli anni 80, molto bella ma anche molto grande, più grande di una HF. C'ha 40 canali. 40 canali e poi c'è più 40 canali, 80 canali praticamente. Quindi strumenti, un bel base. Solo che aveva questo, aspetta, metto il lock qua, ecco qua, e aveva il, come si chiama, il trasformatore, siccome 220, il trasformatore che un po' ronzava, allora gliel'ho staccato e pulito e gli ho messo i gomini nuovi sotto e se non ronza più. Va bene, me l'hanno regalato, sono un radio di un mio amico di Cagliari che ogni tanto me ne manda una, me ne ha già mandato tre, anche il tarne più due da tavolo, capito? E quindi le usiamo giusto per fare qualcosa. Vabbè, quello là te lo ricordi? C'è o non c'è? Quello là te lo ricordi, c'è o non c'è? Che cosa? Il fascio. Ah, il fascio, sì, che ce l'ha. Ce l'ha, ma anche quello è un bel baracchino, mi ha mandato un altro, ma non è un patch, è un coso, come si chiama, un multimode 3, così, multimode 3. È poco vecchio già. Cos'era impacchettata quella radio? Cos'era in? Che ti ha mandato questo impacchettato, ma che tanto era? Sì, tutto impacchettato. Dico proprio col cielo, ma originale, cioè, nuovo, dai, volevo dire, tutto dal negozio. Io c'avevo un negozio, capito? C'era un negozio a Cagliari di baracchini. Siccome è chiuso e adesso rimasti a tutti i baracchini vecchi. E allora ogni tanto me ne manda uno. E mi ha mandato uno Zodiac base 5024 che è da vetrina, nuovo, già li ha visti Massimiliano qua, già li ha visti tutti, non c'è problema. E poi c'è uno standard base, lo stesso base station, standard base station, grande, lo stesso, sempre 220, lo stavo usando l'altro giorno, già funziona anche quello. E sa che sono collezionisti, allora ogni tanto me ne manda qualcuno, capito? Avanti Antonio. Ti volevo dire, e ti hanno tutti regalati questi, così. Ciao papà. Fortunato, già sono belli, dai. Poi se non sono stati mai utilizzati, mai venduti, sicuramente saranno nuovi di pacca. Nuovissimi sono, no, non c'è problema. Tu mi hai mandato solo baracchini. Aspetta, metto il coso. Il lock. Non mi ha mandato solo baracchini, no? Ehi, mi manda anche altra roba, là. Ehi, ma siamo amici in infanzia, ci conosciamo la vita. Non c'è problema. Siamo un radioamatore, c'è queste cose, sa che a me mi piacciono, quindi ogni tanto me le manda. Mi ha mandato anche un amplificatore a due valvole della... cos'è? Lì mi pare una cosa del genere. Però è da controllare, ma è nuovo anche quello lì. Adesso lo mando a casa. 131, vai. Ciocucciù. Faccio anche a te, con due valvole o con una? Due, un po' superiore al 231. È un BRL 200, si chiama. Va bene. Allora, messo a posto la scimba, come va? C'era il trasformatore che roncava, era tutto sporco, stacchiato, nella ventola. E anche la ventola si è accesa di questa radio adesso. Si sente? Bene, si sente, vuol dire che stava affrontando il finale, vuol dire che sta andando bene. Ma perché ci avevano la ventola, ci avevano quelle? Sì. Alcune base, soprattutto quelle che vanno nel SSB, c'erano una ventolina dietro. Ventolina, ventolona. E questa c'è 50 watt la radio, non è che è un barattino vicino. Questa c'ha 50 watt. Davvero 50 watt è regolabile. Se non è una bestia, è più grande. È grande quante volte 50 nella tempo, una cosa del genere. Pare che sia, pare che sia meglio qua. E non va bene con l'apparecchio, ma bene per me. Certo. E se bene sì. E si è staccata, caspita, funziona anche la mente. Va bene. Vanno tutti bene. E già. Voi magari non ve lo ricordate, ti uscì un po' più vincello. Ma Antonello adesso già se lo ricorda il Simba, te lo ricordi il Simba SSB 50, Antonio. Infatti si chiama SSB 50 perché c'ha 50 watt. Poi c'è l'SSB 25, come il Comstat, no? C'è il 25B e il 35B. Capito? Le sigle che davano prima erano riferenti ai watt che potevano dare. Questo è SSB 50, poi avevano fatto l'SSB 25. Che mi pare che con lì c'è anche le ferme, però non mi ricordo. Tra le cose ancora l'SSB 50 era Simba. Via, non mi ricordo. Tempi che furono, la verità, ne ha conosciuti a parecchie. Guarda, se avessi avuto lo spazio, diciamo, il delizio, sarei stato, con quello che c'è adesso, sarei stato il numero 2, come minimo. Perché c'è stato il codice dei primi baracchini, sembrava un sindaco di Sossole. Tutti a fare rende, e abitavano vicino a via Pasquale Falso, pericolo, la catena affitta, era una cosa allucinante. Tutti lì, anche tutti lì erano un CB. Già lo so, sì. Ho passato la potenza. Io vabbè, adesso sono a 15 watt. Come ti arriva lì a ossico 15 watt? 9,25, fai 9,28, dai, quasi 30, è sempre radio 5. E invece se aumento la potenza così, a vedere, così a 50 watt, aumentato a... E si è rimasto a 9,31, mi segna qua nel Galaxy. Ehi, non la devo fare, ma pure di me, lo lasciamo così però a pochi vatti. Vabbè, ragazzone, vi lascio il vostro consiglio, io mi chiudo questa radio e poi ci sentiamo 10 minuti e sono veramente qua che è aperta e sta già iniziando a rifarmi il caldo a faccia, è meglio che la chiuda prima che batte qualche cosa, non mi ha pigliato questo, mi scelgo di teccia. Buon pomeriggio, erano altri tempi, era, ma lo sai quanto c'era da leccare? Già, dimmi. Quanta fila c'è a dire che rizzeggio qua? Dimmi quando c'è, quanta fila c'è nel rizzeggio quando venivano a trovare a me le ragazze. Allora che giovane, tu facciamo i capelli, che adesso mi sembri il figlio dei Lombardi, cazzo, tutto senza capelli. Vai, buon pomeriggio, ci sentiamo dopo. Guarda che non scherzo manco adesso mio. Quindi, vabbè, allora c'era un giro bello a Paracchino, adesso ormai il giro è morto. Però la verità, la fila c'era dei CB che faceva il tecnico per le ragazze che entravano. Era l'unica persona che io non andavo a entrare in nessuno, erano loro che chiamavano a me. Voi adesso io mi fate fare un pianto lì e basta. Quanti ne ho fatti in tanti belli? Erano sempre barati, nella verità. Tranne uno è caduto. Quello del figlio di Simba, il giro del terzo, che siamo andati io e già di Bravo 2 e c'era la vita. Avevano fatto un impianto. Io ho messo le gaffe in quel muro. Facciamo la paletta, abbiamo messo con la mano in cemento. Da voi dopo abbiamo messo i tiranti, dopo è sceso un fulmine ed è sceso là, si è staccato in pratica in due l'antenna, poi si è staccato le gaffe tutte intere, compreso il cemento. Dove? E a casa io? Che la fa? E comunque erano tempi belli, dai, tempi divertivate, ah. Tu non mi hai detto chissà quanto te ne hai fatto un cazzo. Vabbè, giustamente. Guarda che mi ripeto anche adesso, mio. Ti credo che mi ripeto quando scendo il tuo ricco. Mi ripeto anche adesso, non ti preoccupare. Ripeto anche a me. Yeah, no, mi sei parlato questa volta in maturantesa. No, ma anch'io mi divertivo, la verità. A vecchi tempi, quando anch'io modulavo all'epoca, frequentavo molto Itiri, conoscevo tantissimi DCP lì e andavo quasi fine settimana sempre lì con questo prete che si chiama Don Tonino, però non mi ricordo più il nominativo che aveva, anche lui era bravissimo con gli apparati, a giostrarli, anche a sistemarli, a modificare, poi ha mollato tutto anche lui, però non mi ricordo come faceva di nominativo. Tu te lo ricordi, Antone? Sempre se l'hai conosciuto, Don Tonino, Tonino faceva di nome. Sì, io non lo ricordo, non lo ricordo, è venuto a casa, ti giuro, c'era mamma, babbo, mi suona la porta, mi fa buonasera, e ho fatto ciao, adesso mi ricordo un attimo, e ho cominciato, e mi ha detto aspetta, si è arrivato Gesù Cristo, io ho detto sempre ti ero nato, poi ho detto guarda, tu la faccia la prete, mi spiace ma non ce l'hai, tu c'hai la faccia, ti giuro, ho detto così, e te l'ho finito di barattare perché non è possibile. Tutto il mondo si sta tentando di barattino. Zitto, zitto, un dito cosa del genere, non si parla male in faceva. Io sono un tipo del genere, però abbiamo una simpatia, guarda, unica. È stato lui che all'epoca mi ha fatto conoscere l'apparato e poi ha iniziato a modulare. Si muoveva a casa, poi lui c'era una uno bianca della Fiat, aveva sempre lì antenne, anche lì in chiesa ne aveva lo stesso, c'era anche la trazione lì. E poi ha mollato tutto purtroppo, era veramente brava come persona. E ti dico che c'era delle mani d'oro per gli apparati, era impressionante. E poi non l'ho più perso di vista perché poi l'hanno trasferito da Ossi, mi ricordo all'epoca avevano mandato a Tutubella, poi no, non l'ho più visto, sparito dalla circolazione. Quindi anche quando il sabato domenica andava a ballare con le ragazze, l'autosito per forza, tipo un ronfio. Dove tu ce ne sapeva quella. Ti giuro, guarda, io a me non ho mai capito di conoscere un cibi prete, ma come quello, guarda. È una cosa allucinante, là. Proprio, guarda, di una simpatia che non ce l'avrei. Ma nessuno, un prete così questo. Ci sono sempre di sottrani, questo era proprio allegro. Non mi faceva nulla. È proprio così, guarda, l'hai ben centrata la persona, no, Gerard, io quello mi sono veramente divertito, e ho fatto delle scene strane che giustamente non fa apparare l'apparato, comunque mi sono divertito, diciamo grazie a lui mi avevo acquistato il LAN 44, la mia antennina e così via, e c'ho ancora giustamente dei ricordi. Sì, all'epoca sì, c'era un saccaccio di gente, i canali erano completamente pieni, fino all'orlo, e tipo potevi parlare a qualsiasi ora della notte che trovavi sempre qualcuno, sul 20, sul 5, sull'1, sul 40, era sempre pieno, ma mi sono veramente divertito. E poi a quanto pare, perché anche poi anche Ussi ce n'erano tanti, e sono l'ultimo superstite in 6.000 abitanti. Sì, c'era De Martis che parlava baracchino, Franco, poi c'era Giancarlo mio cognato, Ciritu, Andrea Manicomio, poi tutta la Bibbia, c'è anche Maria, quella che fa l'autista del cane, ha chiesto se pensavo parlando a baracchino da poco, ho detto di sì. Poi c'era Simona vicino e mi ha detto se c'era molta gente per poter nuovo rientrare, e poi non l'ho più vista. Quando la ripeto glielo dico di mettersi il baracchino così almeno rientrano un po' di giorni in matta. E poi ho sentito che c'era. C'erano dei pastorelli che rimangono su sua litterai, che volevano, e mi sembra che non me lo ricordo più. Se riesci a convincerle già è una bella proposta, sempre sperando che abbiano ancora gli apparati. No, lui non penso che ce l'abbia l'apparecchio, ma l'ultima volta già ce l'aveva, era Hercules che si chiamava il fidanzato, erano due gemelli. Oh, se riesci a incontrarli provaci, speriamo che là, che riprendano anche loro. C'è l'Ausi, c'è OCB, c'è anche cosa addirittura, che è CB, come si dice, Mariuccia, quella che si spino, anche lei c'è il baracchino, Antonia. Ah, dimmi, Pomponio. Ma a me che ci scende qualche giorno al centro storico, perché ti faccio divertire. Oh, buono, non potrò dire qui. Faccio fare un giretto. Andiamo a fare l'allaccio dell'impianto, la parabola, una signora a me ti do una mano. Sempre che c'è bisogno di fare gli impianti, va bene, è un giro, capito? E ci divertiamo, fa passare 5 minuti. Ci siamo venuti l'altra volta con Antonello, siamo fatti un giretto e siamo divertiti parecchio. Siamo diventati tutto mezzo occulti, la verità, abbiamo fatto una bella passata di birra, tutti e due, al circo, cosa vita era? Sì, ma guarda, non me la far vedere di quelle cose, no, sennò guai, la faccio perdere. No, andiamo e diciamo l'allaccio, va. Peso hai, tanto è. E non ho capito, no, lasciare perdere che cosa? Ma non fa di vedere quelle ragazze, ha detto, se no di fare l'allaccio, ha detto. Di vedere quelle due? Sì, penso che non le conosca quelle due, ma tu già le hai conosciute. Bene, va bene, dai, no, non c'è nessun impedimento o problema. Voglio i soldi, Antonio. Non credo proprio che io ci vado con i soldi. Forse il contrario, mi piacerà Antonio va avanti. Dimmi, Antonio, cosa mi hanno dato a me? Sinceramente, lì di là. La corda. No, ecco, se stiamo amico spino tornato, mi sembra del ricevitore piccolino. E però a posto. Mi sembra che ci abitino, insomma, di cose, 78. Se la vado via, perché poi allora questi sono 5 euro per te, e ce ne abbiamo bevuti con l'altro ello. Mi pagano subito e sono contento di quello, ognuno ha quello suo, io rispetto per quello che sono e l'amicizia è quello che conta e mi trattano bene e mi sta bene così perché sono con la certa di vecchio gruppo è così la cosa. Se ti trattano bene tutto a posto, se ti trattano male non è manco, se no sei buttito. Tutti di doppio esame a fare la cosa. Se tu sei di quelli intelligenti ce la fai a fare, ci stai mettendo allora. Purtroppo è così. Avanti a me. Vabbè, comunque. No, già. Non è che abbia bevuto così tanto, eravamo tranquilli, senza bimbi, una passeggiatina, viene le view, e poi che come il buona notte. Ma c'è andata, non so. Giuseppe, Leoncino. Lo dio, sì. Se ne vai, eh? E Antonio, molto dopo. Ciao, Leoncino. No, sì. Ma va che hai chiamato Leoncino? Ha trovato. Leoncino, conta, ciao. Inteso, vai. Sono il leone incazzato nero. La ponte in culo nero. Ma cosa sei tutto peloso? Non tutto peloso, vieni, facciamo il gioco della calza. Senti. Certo, quella è la calza, quella è il raso elettrico. Giovane, giovane, anche più giovane ero forse. Sì, diventa, giovane, più giovane anche di Chicago. Era una gattina, mi ammazzava, come si chiamava? Bua, ogni volta che entravo mi perseguitava, come si chiamava? Aspetta, poi non era nemmeno, era pure ciospetto, mi cazzo, volevo la mezza. Era un signore, era un signore. Bene che ti devo dire una cosa, che dovremmo fare, dovremmo arrangiare i conti. Non mi ricordo Samantha, te lo ricordi Samantha? Sì, ma c'è la cosa, in caso non c'era Baracchino, c'era Gianni che era la... andavano tutti i giorni sotto casa sua, cazzo. Ogni volta che andavo a bisticciare, perché veniva sotto casa mia per poter parlare con lei, anzi già non andava via a casa mia, dietro si metteva. Ogni arietto, ma non è possibile, andate a vedere il pezzo cartello, date pure la punta, nulla, non c'era niente da fare, tutti i giorni lì. Quando io c'ero anche uscito con Samantha, e poi c'era anche l'amica, l'altra amica come si chiamava? Come ti chiamava? Non me lo ricordo. Roberta. E ieri ha più minuta, La sorella era Roberta. C'era Kitty, esattamente si chiama, ma Samantha si chiamava Kitty. E Roberta era la sorella, e c'era una capelli biondi e altri capelli che stanno scuri, se ti ricordi bene. C'è trovo la bionda. E con che chiama si è uscita? C'era il carattere proprio di Bertola, proprio non ho mai d'accordo con lei. Andavo d'accordo con Roberta, perché ci conoscevamo da piccolini proprio. Poi se ti ricordi, dopo loro due era entrata anche una ragazza, l'amica sua, che era della Santa, ricordi, quella, la figlia del patriciere, Lollo si chiamò, ma era la O. No, non me lo ricordo, qua non me lo ricordo. Sì, quella era la cosa allucinante, era entrata anche quella baracchino, erano in tre, vabbè, allora prima modulava la via, come si chiamava quella via? Via Principessa Maria, se non ricordo qua, no? Non via Principessa Maria, via Matteotti era. E modulava in tre in pratica. E poi nient'altro, io dico, comunque, dopodiché, una fila dei GB. Un bombe, io mi ricordavo con questo un bel c'è riuscito, certo, poi era già un periodo, un bel periodo, ma in quel periodo era un bel ragazzo, io ero giovane, cacchio, aveva l'occhio lince, io volevo lei, minchia, e poi anche a Porto Torre, era un bel periodo, quel proprio un bel periodo, non ricordo molto bene, c'era una Super 5 all'epoca con l'antenna nera sul tetto. Sì, ragazzi, c'erano state anche cose mie, stasera di buone, anche i punti c'erano carini, un po' di ragazze. Poi c'era San Giovanni, ce ne sono state tre che modulavano. Te lo ricordi a Consuelo? Eh? A Consuelo, te la ricordi? Consuelo, non era bella? Sì, che era bella, era carina pure. E poi se ti ricordi bene c'era una ragazza che parlava baracchino, che era questa aspettiva in radio, che non mi ricordo se nomina tipo Lori si chiamava. Che in pratica questa stava con due CB, stava sia con una, non mi viene in mente il nome adesso, in Piazza Castello modulava questa, finalmente stava con lui e più con una tipa che abitava a Carica. Che c'era sposata, era divorziata e c'aveva un figlio, Luca, non mi viene il nome adesso. Io non mi ricordo il nome, era giù un capo, però poi già mi ricordo alcune cose. Praticamente c'era un figlio di Vesco, no, vabbè, non voglio dirlo. Era un casino, là. No, era un casino, là. C'era un tipo che parlava da fino a Castello, che non mi ricordo adesso, la verità non mi viene in mente il... C'è sulla punta della lingua adesso. Che No, ma anche io sembravo un finocchio parlando, invece faceva la voce continentale più sana di me. Intanto zitto zitto andava e faceva le cose, capito? E noi pensando, ragazzi, la buttiamo noi, e invece tu poi la butti a Ego, c'erano due ragazzi, ce la facevano due, tutti e due, prima una poi l'altra. Mamma ragazzi, è un compressore. E avevo il compressore, sono fatto come. Sono andato una volta lì, abitavo, mi sembra, mi costa quindicesimo piano, undicesimo piano, una visuale in Veranchivi, in quel palazzo. Ti giuro, guarda, se fosse stato abitato avrei messo una mantola, mi avrei crepato a tutti da lì sopra. Ah, ma che bello che voleva da lì, in quella faceva questa cartella. Non ho capito cosa faceva? La carta ce l'ho per metterla a Giuseppe, no? No? Sì, così si crede poi davanti a un laboratorio, sarà aperto. No, me lo ricordo di questo io. Mi ricordo se si chiamava Armando, come si chiamava questo qua che parlava di Renaceno. Non mi viene in mente il nome, ragazzi. Aspetta un attimo, mi richiamo, aspetta, cosa si chiama? Guarda che io girava con un brutto, cazzo, stava con una tipa. Tu mi sembra accorbrato, non mi ricordo adesso. Hai capito cosa dicendo? No, non me lo ricordo adesso. Vedi che tempi sono, ricordami tutti i tempi che ho conosciuto, mi vorrei sentire un coso di nuovo. Io so che ricordo che di qualche cibo vecchio. Aspetta, escono gli amici. Guarda che questo stava con una tipa che adesso c'è una casa normale vicino a me. E si chiamava casa. Amore in radio sempre bisticciavano, cacchio, non ti chiamava cacchio. Lui come si chiamava? Mi sembrava che la faccia lo trasmetteva. Sono sempre cattivo lineare enorme, un parlare per un bel questo qua cosa, non male proprio Giuseppe, buf. Ciao, ti ho capito che stai parlando adesso, sì. E la ragazza modulava vicino a dove volevi tu adesso. Via. Una traversa via Principessa Maria rimane. Salendo su e tutti e due studenti quando sono entrati a Palattino, lui era insieme a lui fino a Zazza, quando è andato a Palattino la prima volta si chiamava la fortuna e si è messo con un'altra. Forse si è sposato con quello. Poi chi è capito che c'è per Pluton si chiamava e Giuseppe si chiama quello. Non ho più visto, girava con un secondo di quelle, una ciofola. Già ti ho capito, già ti ho capito. Quello ha detto una scorsa brutta, amico Bacchio. Ecco perché è sparito. Ma non è sparito quello? È stato poi con la gara sulla fidanzata, ero lui. E poi io, anche la... Padellina, quelli che si chiamava, non ti si chiamava, che si era messa con un che abitava a Platamona, questa, che si era messa con uno, cioè, come si chiamava lui, un uomo fioccato, non ti si chiamava, Giacinto forse. Giacinto c'è stato uno, era, c'era l'ambulanza della Croce Bianca una volta. Forse, quello conoscevo, che fa quello conoscevo bene. E poi questa pallina si era messo con un altro CB, non so se tu ricordi. Il padre era pompiere. Tu stai confondendo con no, con la prima Pinucci Studio stai confondendo, Anna. Anna si chiamava, che era a casa Platamona. Abitava sempre solo con te fattore, Anna, la figlia di Luigi Spillo, che la figlia di pompiere tutto, che era fidanzato, non mi ricordo chi, poi l'ultimo che ha fatto che ha avuto, non so se si è sposata adesso con Cristian, non lo so. Comunque lui, l'ultimo che ha fatto che era Cristian. Ultimamente un bel inciucci strani c'erano, che inciucci su lui. Carico di a cosa? A pellicolina, carico. Pellicolina? No, non ricordo che. Quella era una che era la figlia di uno che c'aveva al cinema. Due cose all'altra con le robe qua. E poi da lì aveva conosciuto Marco Coso, quello che abita a mi fate i carabinieri, e c'era uscita a battere con quello, ma quella già ne ha passato, diciamo, ma intanto si faceva un luci lì. Poca roba, mi ricordo di Ciucci, perché cazzo io sempre i Fendi in giro, cazzo, fuori di Bizzini, era un casino, cazzo. Oh, via, c'è due quelli che c'era una. Che ogni due per la cui metteva la canna lo piegando, oh, cazzo, d'ora, dovevo fuggire, cazzo, mi scendevo in piazza di Cari, mi perseguitava, cazzo. E tu sei zitto che ti ricordi a cosa, secondo la costretta? Sono un presidente, mi sembra 120 canali, e muore per via più stretta, che poi la passava solo come te lo ricordi. Tutti i giorni, mattina e sera, poi da notte facevo apposta, dicevo no, chiude, aspetta, mezzanotte, da una, da due, poi mi diceva, cazzo, chiudi, bella, fino, se ti ho fatto il mio nome, facciamo un ma, aspetta un attimo, e lui mi diceva, chiudi il baracchino, se ti sei attaccato a questo cazzo di baracchino, non stai neanche studiando. Adesso mi viene in mente il nome, come si chiamava, il mio tipo. Eravamo sempre tutti i giorni a sera parlando su 14. Una volta ho fatto anche piangere, addirittura. Attenzione Falcone, si ascolti qua. Dimmi a Tino Buscoli, buonasera Tino. Buonasera a tutti, ciao Antone. Dimmi una cosa, come la radio? Ha cambiato per caso? No, la terza è 5, chiara. Andare. Non so, non ho fatto ascolto, quindi fai girare tu e rimango due minuti, e poi vado a nanna. Sono entrato giusto a salutarvi. Stavo parlando di te pianti con coso. E poi c'è, vabbè, c'è Antonello di Rossi e Giuseppe Leoncino, anche Giuseppe Leoncino. Ehi, buonasera a tutti, comunque, sul canale 10. Cappa, io non so se ho interrotto il vostro QSO, quindi riprendete, sono andato a salutare. Faltino. Oh, dimmi Antonio. Se senti finito, chiamalo, dimmi che il 231 è pronto. Ah, ero stasera l'ho sentito, però non sapevo che... Non so, magari adesso guardo su Facebook se c'è e glielo dico là. Dimmelo, se fa male se lo ritiro almeno, se sono a casa. D'accordo, Sì, d'accordo. Avanti, ripigliatela. Sergetto di Cirri. Fabrizio. Sì, mi guardando la cosa di un recca se trovo, mi serve roba, devo prendere in scadenza. No, così era pure di sigaro un bel tempo, poi chi c'era, fammi ricordare. C'era un altro, ma che cazzo c'era? Io mi ricordo, io poi sulla Buti c'era in quel periodo, io avevo fatto molta amicizia con Marcello di Porto Torres, un altro, e ce n'era uno ogni notte, cazzo, io con questo qui lo faceva a pezzi, minchia, questo qui po' grande si incazzava con una poi, cazzo, se mi trovo mi rompo il cuore, minchia, quanto faceva incazzare, e quello gli diceva Marcello, gli faceva il rude, ma che cosa mi fai, gli si era incazzato, cosa cazzo gli diceva, Burca, ma di tutto quanto, minchia, si incantava come una bestia, mi va ben arrivando con l'altra grande gli occhi, è una cosa impressionante, ragazzini. E tu ti ricordi come faceva Gianni Professore, a Balacchino, a un CB che lo faceva inventare idrofobo, cazzo, addirittura. Adesso è morto quel CB, non me ne conosco il nome attivo. Comunque, faceva incazzare a morte, lo faceva incazzare. Un giorno sono appeso con la moglie, l'ha picchiato, stiamo piangendo. Quella volta che gli avevamo messo le torna, gatto. Assurda, era proprio passato forte, dentro e fuori, quando le combinava, ma la serie mi diceva le cose serie, di base incazzata. Oh, chi Marcello Matta? Che mi sembra, ma che Matta era il produttore, se non mi sono ricordo male. Ma essere qui ero molto, molto amico di Marcello, poi siamo presi di vista, ho fatto amicizia proprio in frequenza, aveva uno o due anni in più di me. Guarda che era il veloce cioccolato con gli occhiali, spessi. Sì, no, l'ho conosciuto anch'io prima frequenza, poi ci siamo frequentati un pochino, là. Sì, già è lui, Marcello Walter. E che fine ha fatto? Ho sempre lavorando con le televisioni. Ah, ho capito, io sono un po' di anni senza sentirlo, Sì, anche io ogni tanto lo vedevo, lo credo, mi capita di incontrarlo, ma ho perso proprio di vista. Una volta l'ho fatto uno scherzo, c'è su cacchio, cadeva che tanto ormai non... Cazzo, non mi ricordo, un CB gli abbiamo fatto uno scherzo, cazzo, mi chiamava, mi sparassi, mi raccontava perché si fa male che non ci più nei suoi, quelle poi ascolta, se no era da arrestare. Tu pensa che Antonello Giovanni Caposanto aveva la bara nel camion con la scritta di Marcello Matta? Ah, ma la bara mi sono messo io una volta dentro con due CB, anzi l'ho fatto per un CB che era innamorato presso di una ragazza, allora saliva su tutti i giorni. Figurati, allora che l'ho fatto, mi sono conosciuto dentro la casa alla volta, gli hanno detto, dice vai a prendere la casa di birra, due fondo, dice, c'erano centinaia di casse. Quando è passato vicino a me, ho preso, ho aperto la casa che era al piano, ho mollato la casa della birra interna, e si è pubblicizzato tre giorni da venirci. Ah, io qui letto, mi fate disturbare la televisione. Ascolta, fai da bravo tu, se no ti faccio un correttivo esecutivo. È vero. E metti, buonasera a tutti. Ciao Luca, ciao a tutti, ben sentite. Io vengo il 37, no? Vente. Una bella passata. Ciao Luca. Ciao a tu. Guarda, sentito. Grazie, ciao Tino, ciao Pomponio, ciao Fabrizio, Claudio, sono fatto ascolto, ho sentito solo voi e basta, dai, avanti, ti riprendi tu. Ho preso il marracchino perché mi viene il video e sono sdraiato. Allora hai fatto come ho fatto io. Come dice? Hai fatto come ho fatto io, sono entrato senza fare ascolto, ho salutato e ciccia. Vabbè, dai, comunque, già va bene lo stesso, interessante non sono a modulare, va bene così. Avanti, Claudio ci sei. No, riprendo io, non c'è Claudio. Dicevo, una volta telefono, tanto Marcello lavorava a Telettere all'epoca, non so se ti dice se lo verrà, dove era Telettere prima, gli studi dove ce li aveva. Nelle condizioni dove c'era una volta l'ufficio provinciale del lavoro. E più o meno lì giravi, no? Lui lavorava la domenica, lavorava, quindi la domenica sera che andava a trovare, cioè stavamo lì in studio, no? Lui doveva mettere pubblicità, comunque era lì in regia. E un giorno facciamo uno scherzo a questo CB, i miei figli, lui viveva a casa, non mi ricordo il nome, ma meglio non dico tanto merito, chiama, senti che te lo scherzo io gli faccio, chiama e inizia, ma durante la telefonata faccia la moglie e faccia la voce, dico, buongiorno signora, c'è il suo figlio, cosa mi deve essere la mamma, no, mio nipote, non c'è, come non c'è, io gli devo parlare, ma chi lo vuole? Sono io, che è il tuo nome e cognome, no? No, è un altro CB, cazzo. No, non mi dico, come dice, no, non lo preoccupare, me lo devi dire, cazzo incazzata. No, non lo devi dire, ma perché non sei, sei un trovo, come sono il padre? Ah no, come diciamo presentati, come il padre di questa ragazza che lui sta uscendo, cazzo pure che conosceva, sento un'altra del CB, sento un'altra. Ah, io qui, cazzo, e questa si incazzava, questo, no, mi dico, ma, aspetti, aspetti, faccio aspetti che lo passo alla fine, so bene cosa faccio, perché passa questa, ma mi dica, ci si vedeva come parlava, mi dica, e inizia a tirare di fuori, io, suo figlio, io ammazzo suo figlio, lo ammazzo, che messo in cinta mia figlia, no, mi dica, come non si trova, punta, cazzo, in giro punto, si sente questa qui, che io incazzato, e c'era quello che faceva la spalla, c'era da questa ragazza con noi che non so voleva di passare il telefono eccetera eccetera, alla fine cazzo era talmente pesante che era incazzato, questa cercava di calmarmi, troviamo una soluzione, troviamo un cazzo, prendi il cucino, come la cercarlo, cazzo a un certo punto si sente questa, mi dice, oh, io mi sento male, io guardi, non prendo medicine, ma era cosa vuole medicine che prendo, come mi sento male, mi faccio mia madre, chiamo il medico che mi sento male, cazzo giù in questa mujer al telefono, passi il codo alla madre, dice, oh, mio figlio, sei mio figlio, mia madre si sente male, ma le devi dire queste cose, guarda lì con il capo, adesso sto per favore, faccio chiudere, devo chiamare il medico, cazzo, dico, ma che lavoro in buca, porta, cambiamo, ecco, non lo dirò a nessuno, cazzo, no, ma ne avevo paura, mi credi, sul giornale, cazzo, che ce l'era morta una, capito? Disgraziati siete però, cazzo, anche poi vi vuole la persona, cosa vita, mi faccia chiudere per favore, mi faccia piangendo questo, mi faccia chiudere, no, mi fa male, devo chiamare il merito, cazzo, gli tuvo che avevo, no, avevamo mia moglie, ha detto, ma facciamo più scherzi. Che disgraziati che siete, bubù. Non c'è, a te immagini queste cose che facevano, questi cibi bricchi. Chi ti sei dormito? Perché eravamo cibi giovani. Vabbè, io lo so che eravamo cibi giovani. Mi ho combinato anch'io, non si crede. A tabacchino, io fate le combinate. Io domandavo le... Buongiorno, sono la fratella di Giannina, ci ho portato le siopane, siamo portati. E le Giannina usa bianca. Accendo, attacco l'antenna, comincio a girare, avevo 27, 28, 29, 700. Cazzo, vado in 49 megahertz, segnale a fondo scala. Questo si è davvero dimenticato, il telefono acceso. Il telefono in giro, due cose, è calato il bambino, senti fa tutto. C'è un po' di voce qui di fronte, controlliamo che... Per il binocolo contro le finestre, le finestre del tetto piano, si veniva fa tutto, si vede. Ehi, cazzo di vedere, siete anche maniaci però. Di giù eravamo io, Giannina, Angelo Delfino, Andrea Maricolio, poi c'era Carlo Pesce, che hanno fatto una risata la notte. Guarda, ti lascio, metto la parica, te la togli, ho detto, ridotti un pochettino, ho detto. A girare, allora questo io ci usavano quindi quei telefoni cordless, era un fischio, faceva 29, hai pronto il telefono cordless, e poi da 49, 45 mega addirittura era un fischio. Quindi ci parlavi pure, perché io andavo su 49, di nuovo quando facevano pronto, io pronto signora, era simple, e tra l'altro gli chiudono il telefono, e faceva quella, chi è che chiamo? Chiede, e tu sono di punto della CP signora, non ti tiro il telefono. E io a me non possiedo da far cervo, perché quello che ho fatto io sono ancora più pericolose, sempre su roba di gola, ragazzini, 20 anni, 21 anni, e altri tempi, bei tempi. ripresa? No, non sono io. Aspetta, quello lo sei tu. No, l'ho comprata all'acqua, la moto io. Devo entrare nei particolari, cazzo. Cosa vuoi che dica? C'è una vigilessa di mezzo. Sì, allora già sono io. Allora basta, già sei tu. No, l'avevo preso all'asta, eh. Vabbè, non all'asta, ma cerca di capirmi. Sì, allora già sono io. La questa mia te l'ho comprata. Sì, e poi però subito dopo l'avevo data, cazzo, perché era troppo gallata. Ecco quello che era successo. Ma la sei incidenti che? Uno di quelli ho avuto anch'io, sì. No, vabbè, l'avevo fatta rossa, neanche il tempo di finirla di farla che ho avuto un sinistro, poi l'avevo rifatta bianca, idem compattante, alla fine l'ho regalata a un amico e lui me ne ha dato un'altra, no? Non dico tutto, ma fino a qualche mese fa ce l'avevo. E tu quindi ci stai ancora con la moto? Sì, è Ussi. Beh, la Ussi sta di lì, che colore è? Bianca, tutto originale. Minchia, che è assurdo che sta ancora girando, ok? Guarda, se tu ti ricordi, vabbè, da tanto mio padre aveva un bar lì in via Marchinotti. Diamo un ricordo, adesso sono, io mi ricordo quando l'ho venduto ero con mio fratello grande. Cazzo, sì. Io, l'ho presa io. Però forse tu mi stai confondendo con mio fratello il grande, forse l'ho venuto insieme, però ce l'ha venduta, abbiamo detto forse con mio fratello il grande. No, già sei tu, non confondendolo. Vabbè, io mi ricordo di te, non mi ricordo tuo fratello. Io c'ho un po' la memoria che mi ricordo via Marchinotti, che ero venuto insieme a farla vedere, o l'avevamo, mi ricordo più dove l'avevamo contrattata, dove l'avevo data la moto, però mi ricordo che io sono passato con mio fratello, se qua solo sono venuto. Guarda, mi ricordo io sì, perché ti posso dire qualche particolare tuo, dai, ufficialisti, altro, dai. Già anche mio fratello, io ci sono chiari, mio fratello un po' di meno, ma sono chiaro anche lui è più alto di me, anche, capito, non vuole che ti stia confondendo con mio fratello, capito, perché in quel periodo era sempre lui, poi però io me lo ricordo in Marchinotti, una volta l'avevi provata, cioè, non me lo ricordo. Se non si chiama come te, Fabri, già ti conosco, dai. Io sì, vero, per carità, non li conosco, però io non ricordo il particolare, a voglia. Era giusto così, un rinfresco di memoria. E poi ci sono dei piccoli del mondo, anche io faccio collezioni di quella notte, ci pensi ne una come c'era lui da ragazzino a trovarla, però me l'avrei fatto perché la trovo da ragazzino, mentre di me tenevo anche uno di così vespino bellino. Ma io invece quando ti ho conosciuto io a te ho dato la testa, ho sentito bene la voce, chi c'è fatto il tuo dirigato? Tu sei. E mi raccolgono da Cusano. Ma e non mi sono sbagliato, che sono memorizzato bene la voce. L'ho sentita. In mente mia, non sono stata per la presentazione. Tu sei Fabrizio. Direi c'è il microfono fedele. Beh, signori, beh, ne approfitto che mi voglio riposare, sono stanco, ho lavorato troppo oggi. Ci si riascolta le prossime, dai. Riprendi tu, Fabri. Ma aspetto i saluti e poi vado a nanna. Ciao a tutti. Buonanotte alle prossime, dai. Sto piacendo. piacere, vedi che ogni tanto ci torna in mente qualcosa. Dai, fai a te per i saluti, pompa. Ciao, ti ci sentiamo, stammi bene, salutoni. Saluto da Marco a Palome, se non vedi. Sono un bel non vero. No, di no. Meglia. Sì, già. Lo vedo spesso. Antone, lo vedo spesso e ci sentiamo anche, quindi non c'è problema, non mancherò. Anda bene meno, anda bene meno. Ah, quando lo vedi, che bel capito. Ancora ingazzando si sta e parlando. È sempre rotondo, cosa cambia. Una scena, non ho mai capito lì di cosa so, cosa diavolo voglia fare nella vita. Ogni tanto fa qualche sbaglio strano. Cesso, non lo fa a capo, non lo viene a testa. Antone, dai, dico questo è proprio dall'anna, non è che non ha testa, è che purtroppo anche lui ha avuto dei momenti no, nel senso che la vita non l'ha, non gli ha dato un po' di fortuna, purtroppo magari è incappato anche in spese che non doveva incappare, ciccia, però del resto è un bravo ragazzo, quindi non si merita questo, speriamo che si riprenda. Va bene, signore, vi saluto. Ciao. Guarda, buonanotte, come vedi fermami perché io sono sempre uguale, cadevo, non mi ricordo, se ti vedo, non perché non sia uguale, ma non mi ricordo la fisionomia, quindi se mi vedi, già mi riconosci, bloccami. Sì, Fabri, dai, vabbè, io sono anni senza vederti, ma già mi ricordo sempre come... Come sì, dai, non c'è problema. Se capita non mancherò. Ma quando sono sempre in giro, e in genere sono a piedi difficili e truffi, però magari mi blocco e mi diceva, e questo però mi puoi vedere e mi becchi su, o con un duetto Alfa Romeo giallo d'epoca, che ho appena finito e quindi lo sto usando molto, quindi come luce o uno specchio potrei vedere, oppure in macchina mia. Con una Jaguar X7, se mi vedi non c'è solo molto, quindi se mi vedi tu sono io, guarda che dentro ci sono io. Sì, già, ma mancherò Fabri. Ci sentiamo, vai, così ci beviamo una cosa. Babbo, ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao, buonanotte. Senti. Ciao a tutti, ciao. Dimmi, ci sentiamo, comunque ci sentiamo, di cose. Ti prego. Saluto a Tino. Cosa saluta a Tino? Che è fatto? Beh. Ok, adesso c'è, stai uscendo con quella, con il duetto, Alfa Romeo. Ehi, stai uscendo con qua adesso, quando c'è il sole. Sono uscito due giorni di Civico, che dal 2008 sono riuscito a immatricolarlo e l'ho portato dall'Olanda e quindi rettorato in Magliamento, ho visto Leoncino di sfuggita, l'ho visto, ero dietro, stavo per tamponare, ma poi avevo paura di graffiarmi la macchina. No, ma era come su Bruzzonio, era? Beh, aspetta, Leoncino. Quello sta mangiando lì. Su un carimoso, sta sempre mangiando, sta con la cadera da sua, boh. Papà, ma guarda qua è una macchina che a me non piace, è brutto. Fare un tortone o fare? Io so, e guarda, quando vedi, io vedi in giro, vedi quella macchina gialla girati la mia. Non solo quella, ce n'è solo una sessere. Oh, Fabri. Ehi. Aspetta che stavo guardando la cosa, ma non sei su Facebook, no? Sì, sei qua che già mi trovi, se ti ricordi il cognome già mi trovi. In acqua seguono due bambini. Affermativo. E allora? Dici sono quelli. No, vabbè, poi mi è rimasto impresso il cognome, quindi già mi ricordavo. E lì sono al mare con i bambini, capito? L'estate è vero, al mare, c'è la casa della Platanola e via al secondo pitti, capito? Sono sempre lì. amico mio stesso, amico di Greffa, quindi. Di Robertino, di Paris. E già. Sempre questo lì, insieme con Robertino, siamo eravamo un bel amici di Greffa proprio, Adesso ti chiedo l'amicizia, così qui. Chiedi così, capisco bene, adesso quando sono in rete. Mi riprendi Facebook, che sono cazzo di Facebook, micidiale, riprendi un po' Vabbè, diciamo che, Antonio scusa, diciamo che sono cambiato, Ma... Sì, anch'io già sono cambiato sicuramente. C'è anche Giovanna di mio, vabbè. Ma tua sorella, Antonio? Ehi, Coca-Cola, Perché anche lo cognome mio, sì. Guarda, lui già la vedi, c'è la fotografia sua. Sì, già. Ma perché forse non sa ricorda Giovanna? Sa ricorda Fabio? No, Giovanna non me la ricordo, non me la ricordo, la verità. Tu guarda, sei tu guarda, non è mai cambiato. Sei come lo mio, già lo sai. Sei lì. Tu non me lo ricordo, non ti dicevo, cioè, se tu me lo dicevi dopo due minuti, io me lo sono dimenticato. Invece tu non accendi, ma io sono proprio incoglionito. Sì, Bittau ce ne sono pochi, mia sassari. Quindi, Giovanna Bittau, guarda. Ma noi siamo parenti, allora. Io guardo dove tu vente. Bittau, con due T, no? Bittau, Bittau, tu controllo, allora, aspetta che mi sto collegando io. Piace lì, sempre attaccata a quello cazzo di computer, su Facebook, figurati. Sempre lì, con il telefonino, salve, tutti i giorni sono tivi, io ho detto lì, già ti esaurito anche il giorno. Antonio, ma ce ne sono due però. Non è se ce ne siano due, mi piace male, ce ne sono uno. Dico, ce ne sono due, ho due foto di Res, riesci a vedere. Vediamo un attimino. Questo è esaurito. Ma cosa l'hai ascoltato? Mamma, ma è così. Ogni tanto la sala. Sì, allora. Ma è sposata per caso, Antonio? Sì, è sposata. Non lo sapevo, Con te. Esatto, sì. Già compreso, io la riconosco, va bene, non la riconosco, ma sinceramente guardandola oggi come oggi non l'ho mai riconosciuta. Che è sempre uguale, è sempre precisa e identica. Faccio vedere le fotografie della botta, quelli adesso, è sempre precisa, non ho cambiato niente. Sposata con Giancarlo, che è anche baracchino addirittura. Ho capito, ma non ho... Sinceramente non me l'avrei mai immaginato. Sei messa lì su Facebook. Ma come ti anche tu con un po' detto, brutto come sono, cambiano frequenza, ecco qui. Fabio, cosa stai facendo lo Vespino? Che è più Vespino? E anche in più, quelli me lo guarda che forse dice qualche cosa. Se guardi un pochettino puoi vedere anche il duetto giallo. Non so nemmeno come farle apparire, l'altra volta ci sono riuscito. uscito, grazie. Vediamo. Allora. Dice, me ne faccio ancora 10. Sentiamo la gattina. Fate da bravi. Come Balocco, eh? Armando chi è? Tuo parente stesso? Sì, tutti i parenti, così mortali sono tutti i parenti toscani, capito? Con loro mi ci è uscito, tutti i parenti toscani sono. Ma poi mi sono scritto, ho fatto di scrittura qua giusto per arrivare a questa roba, capito? A capire, a trovare, a fare questi pochi parenti che ho ancora in Toscana. Ah, no, vabbè, volevo vedere la foto di tuo fratello, ma non so come si chiama. Non so nemmeno se su Facebook, beh, non c'ho nemmeno un'amicizia, non so, immaginati un po', non so dove, immaginati quanto lo uso, lui è Sandro, Alessandro. Ma io spero che sia cambiato, eh. Guarda, Alessandro, non so se lo trovi, non so se non è nemmeno iscritto qui qua, non so la verità, ma non so nemmeno un amico. Se mi sto ricordando come ti ho visto, eh. Ti sei ricordato? Vabbè, guarda le foto un po' più giovane, non quelle di adesso magari. Aspetta che guardo io, perché il problema di questa cosa è ancora non ho imparato a usarlo bene, perché c'entra un po' più niente, capito? Io vedi, allora ti sto cercando, mi messo lì, ma non riesco a vedere le foto, non te le foto. Molto no. Ma perché l'hai distrutto? Gabrielli, tu hai tagliato, io ho tagliato. Ma sono qui e qui. Allora, dove sei tu da giovane? Lì qui, eh? Allora, vediamo se riesco a... anch'io penso... Allora... Ti ho detto di tagliarlo poco. Aspetta un attimino. Guarda, dovresti andare giù dove siamo tutti quanti in greffa, che io sono a fianco a una ragazza, è un ragazzo che ha il sì, rosso, in mezzo. E quello era il periodo che avevo preso la vespa, all'incirca, dai, qualche anno dopo forse. Da. No, ho capito. Non posso farlo, dai. Ma vabbè, qua ce l'ho... Dove sei taggata? Che guarda, sei... c'è scritto Tino. Io non aspetta, guarda. Ma stai guardando, questo taggato, questo genere. Tino. Ah, eccoti qua, io ho visto che sei quello di giovane. Cazzo di, forse non voglio esagerare, ma... l'età è intorno ai 15-16. Tu sono bello di qualche anno in più di me sicuramente, non molti, ma qualche in più ce l'hai, eh. Dal 70. Dal 70. Cazzo, sai, quando ti più grande, allora c'è un anno la mia età, cioè io sono del 69. E io sono ottobre 70, quindi. Io sono gennaio 69 più o meno, ma se questo vestito bianco non è questo quello che era mio. Aspetta un attimo, sì, questo qui, aspetta che le sto cercando anch'io perché sono, allora esci un attimo, dove stai guardando? Andiamo a aprire. Dove ci sono le prime foto che ho trovato, dove ci sono i due 16 foto, dove sono quelle bambine di colore, eh? Ah sì, quello di mezzo è mio figlio. Questo vicino qua, no, questo è. Ho fatto cambio, il tuo con questo qua, che però questo qua ho riportato da nuovo. Ho capito, in effetti c'è il targhino. Aspetta, cosa? No, vabbè, la... cos'è il Promai questo qua? Il Promai. Ascolta, tu sì. Aspetta che esco, è quella del 61 se non mi sbaglio, quella che stavi mettendo a posto, vediamo un attimino lo scavo. Vabbè, non riesco a uscire. Allora, sotto. Allora c'è quella 150 del 61. Ce ne sono tre, dove sono... Chi è tuo figlio? Sì, sì, sì, dove c'è quella, quella giallina. Eia, poi c'è quella giallina che poi c'è verde, celeste e così via. E quindi vedi anche la... quella del 60... vedi anche... no, tu la stai vedendo solo quella del 150, stai vedendo quella grande. La specie, c'è quella grande 150 e poi c'è l'altra quella beige, dai, sempre con lo faro rosso tondo. Ho capito, lo special non lo vedi, cacchio, se no carica il tuo special, adesso se ci ricordo lo carico, se mi ricordo come si caricano le foto, cacchio, te lo caricherebbe la foto, guarda tutte le foto, no? Come si caricano le foto qui? Carica foto proprio qua. Ma la special non è quella celeste? È quella bianca che c'è a fianco? Allora, l'hai vista? Qui c'è quella gialla, quella con farò quando stai dicendo? Ce n'è una verdurina, verde A, cos'è? Quella è la L del 61. Poi stai visualizzando sicuramente la, allora stai visualizzando quella che ancora non ci sono le foto finali, la verità è in fase di restauro, però l'hai, non so, quella lì sono riuscita a rimatricolarla quante 10 giorni fa, tu stai visualizzando le foto dove sto restaurando la messa con lui. Ho capito, va bene, dai, cazzo. Ecco. Ah, anche il carter ti hai fotografato. Sì, perché li ho fatti pallinare. Se tu guardi il particolare in quel garage lì a Sant'Orsano, se tu guardi i particolari e guardi un pochettino, ti rendi conto, lì ho tutte le attrezzature, dal pannello sia cittilenico, filo continuo, NIG, MAG, torneo, avviso del torneo professionale che c'è, trappare ancora, lì c'è tutta un'officina per fare questi lavori, capito? Quando ho tempo vado lì, tricchi, mi metto a lavorare. Esatto, è bene, dai, è un bel passatempo. Va bene, dai. Beh, signori, non mi so rendi luci, che chissà se riesco a dormire a lui io. Allora, io se mi ricordo Fabrizio, documenti, di questo sei, video, musica, cronica, che da solito, adesso non trovo. Ecco, aspetta, se trovo un paio di immagini te le carico, ti faccio vedere il duetto. Ho capito. Vabbè, dai, già lo vedo con calma, che vabbè, sono stato di luci, vabbè, veramente sono distrutto e ho fatto una giornata di lavoro pesante. Guarda, perfetto, tra domani e tu non ti ha fatto il duetto che ho terminato. E poi anche il Vespino, l'altro Vespino, non ricordo più di uno di me, pensavo che c'era anche il Guzzi, uno del 50, ma ce ne avevano mezzi già no, guardo là, va a letto. Già ci sentiamo, là. Ciao a tutti. Buonanotte. Sì, no, buonanotte. Ciao, in bianco ti ho già lasciato, Per il ruglio. Ciao, sentiamo, ciao. anch'io sono qui sotto. Con questa qua è una vita che ci conosciamo qui a Cristina, ma che non sono mai riuscito a capirlo. Aspetti, io sto cercando di caricare quattro foto, una ho caricata, tu di quale ci carico? Un po' conosci quello che tengo in vettura io. Beh, dai, alla prossima volta. Questa la camera di cosa sai chi è? Quella che ho prestato una volta a Massimiliano, che usciva con la chitarra elettrica, ti ricordi? Quella chitarra elettrica famosa che ho prestato a Massimiliano una volta, che era collegata e stava... quella lì è. La bella me Major. Niente, ricordi quelle che faceva l'effetto Major? Questa qua è la scatola, però io gli ho fatto fare l'effetto... questo effetto qua, l'ho fatto togliere e lavorare da Roberto. Caffa, lo sai che fatta così è molto più forte, cioè molto migliore. Non lo so, dai. Comunque va bene, dai, va bene, per un apparatino così va benissimo. Poi questo va bene, lui l'ho un po' elaborato. Gli ho fatto un po' di modifiche, dai, cambiato finale, elaborato un po', dai. Ho fatto 4 watt e 10 watt di portante bianca, però parliamo, ho aggiunto un altro pulsantino io. Gli ho fatto un foro e gliel'ho aggiunto un altro, sembra già l'hai visto poi tu in vettura quello lì. Già lo credo, l'ho visto già. Ragazzi, poi non so perché gli ha messo questo affare, non so che cosa sia. Questo condensatore grande, lungo circa 5-6 cm, incollato al fianco, non ho capito in ceramica cosa ci faccia, comunque. Comunque c'è, non so che cosa serva, ma c'è. Esce bene, corposa proprio. Dittivo, dai, pure anche... diciamo anche un po' la voce mia, capito, Antonio, un po' grossolana, dai. Ma che fa? Ma è bella, bella la radio. È positivo. Allora, così è sua, normale, senza niente, guarda. Bene. Però gli ho messo... la resistenza gliel'ho messa un po' leggera, io direi vorrebbe... per far l'ascolto aumentargliela appena gliel'ho messa da sì mi pare, se non me lo ricordo. Ma la scheda l'ha elaborata a Roberto, però sì, la scheda sì, no, gliel'ho messa da 10, non da sì, da 10 ce l'ho. Se gliela metto da 6 aumenta il da 8 aumenta, si sente più per l'ascolto. Quindi dalla Meyer fa tipo cosa? Era robotico, te lo ricordi com'era? Già me lo ricordo già. E poi gli ha messo... questa vez gli ho regolato io, quindi se no può andare anche, voglio dire, può fare un po' diverso pure, dai. Ragazzo, bella radio, l'avrei voluta provare. Questa è fatta per combattimento, per abbinare e allineare, capisci? Tu lo metti con il tastino a 4 watt di portante bianca, insomma questi 4 watt salgono intorno ai 9, 10 picchi e va benissimo per allineare. Poi quando la doppia senza allineare la metti a 10 watt e va sui 15 fischiate, anche 18 sale. Scappa. E già conto come bisogna fare. Perché poi questi apparati così vanno ad allinearsi con l'amplificatore anche. E vedi, ti avevo detto, il baracchino l'aveva fatto Albino, Albino Radio Baccano, quello di Bore. E infatti questo è molto molto... non prende molti rumori, molto sgatteri, questo ne prende quasi zero. Ma comunque c'è una bomba così. È positivo, dai. Cambio basso e rendo. Non so, a me questa così grossolana mi piace molto, mi piace. Positivo, lo sento che... no, ma forse il microfono, amici, io ho fatto una modifica al microfono pure, attenzione a due. La voce è così grossa, diciamo così, l'ho fatto. fatto un accorgimento al microfono, attenzione. Ma mi piace, mi piace molto. Gli ho messo un diodo, una resistenza da 1008, la vicina al microfono, la capsula. Non ho cambiato la capsula, però ho messo un diodo, dai, con una resistenza. Ma molti che fanno le radio non modificano, non mettono solo la scheda d'ascolto. È che il microfono abbinato per quel tipo di radio, molti lo modificano anche il microfono proprio per dare il massimo, la massima prestazione. Positivo, dai, poi ho fatto anche diversi, Antonio, ho fatto anche diversi di cose, dai, nel microfono. Ne ho lavorato anche qualche di un altro, dai. È una minchiata a farlo, guarda, una minchiata, però puoi cambiare tutte le tonalità della modulazione. Cosa hai fatto il CD esso? Esatto. CD è con quella modifica? A volte, no, io ho fatto un paio di microfoni, ho visto che tipo quello che ho fatto l'altro 48, l'altro microfono è la stessa cosa, poi ho fatto qualcuno che posso regolare col cacciavite, col cacciavitino posso regolarmelo a piacere, ne ho fatto diversi, dai. Gamba, ne voglio fare uno che dia la forza più grossolana possibile, uno per il typhoon. Però solo su, dai. E puoi provare, cambiando la resistenza, poi non è ci vuole molto a farlo. Poi ci sono tanti segreti, tante cose, dai. Ma le facevano sempre, in passato le facevano sempre queste piccole cose, le facevano questi diodi, queste resistenze nella capsula, mettevano sempre per cambiare le tonalità, una cosa vecchia, non è una cosa adesso. Gamba, tu non me lo dici e me lo faccio uno, perché molte volte è un casino, cioè, a me piace quella modulazione così grossolana, proprio bella, che esce proprio potente. Io voglio fare un microfono che dia prestazioni. Che tipo vuole l'opera Massimiliano nel 48, la voce che gli fa? Quello è fatto, c'era la 1008, la resistenza, capito? L'abbiamo messa la 1008, e vedi che voce che gli fa? Ma allora me lo faccio pure io così. Ma lo voglio provare a farlo pure io per il typhoon. Che calpettina. Ma Fusaro va a prenderle queste resistenze, la 1008. Positivo, la 1008 la prendi, perché la 2100, 2200 è troppo, la 1008 va benissimo, ma lo provi. Io nel CT è una meraviglia, te lo sto dicendo, e poi ho aggiustato altri microfoni, però anche quelli che facevano asino, cosa, sono riuscito a cambiargli la tonalità, dai. Scappa. Stavo dicendo lui, 1008 come le devo dire, questa resistenza, 1008. Sai quali sono, quelle piccole, quelle resistenze piccole, da 1008 tu gli dici. E poi col test, io le controllo col test, io a volte ho trovato qualcuna da mese da comprarle, non le ho comprate, ho cercato, a volte mi capitano televisori di qualche cosa, qualche radio, qualche cosa che smonto, e poi con tutte quelle resistenze, poi controllo i valori, col test, adesso per farmi parlare ascolto, adesso qua l'ho messa da 10, addirittura qua. Scappa, quello lì va attaccata quella, tra il capo di uscita e quello dell'entrata, come cazzo va attaccata? No, questo secondo l'apparato lì, il 48, secondo l'apparato, come entri tu lo spinotto dietro, per la casa esterna, non entri tu lo spinotto. non vengo o non lo fai vedere, almeno ci sappiamo meglio. Sì, sì, e poi se tu guardi quelle tue ce li hai, mi. E se tu guardi, va bene, dove le avessero aperto non lo so. Ma te lo faccio vedere, cioè te lo faccio vedere qualche volta, là. Poi per tuo padre lo saprà che dove l'hanno messo. Papà, perché io voglio un microfono che faccia la voce grossolana, cioè proprio bella, potente pure. Cioè che la radio proprio si trasforma quando modula, capito? E tu allora, Fusaro, prendi un trimmer da 10K, da 10K, prendi un trimmer da 10K, di quelli che si usa per, sai, nella camera eco per regolare la radio, la velocità dell'eco, prendi quei trimmer che sono bianchi, neri, blu, a volte, con tre piedini, ce l'hai presente? Da 10K. Capa? Sì, sì, ho capito. E tu prendi uno di quelli lì, che è la stessa cosa. Con quello qui tu lo regoli sino a piacere la voce tua, la modulazione. E poi una volta te lo regoli, lo lasci bloccato così. Ma dove va attaccato quello? E te lo dico io, dove va attaccato, quando lo compro e poi te lo dico io. Il streamer da 10K. Eia. Poi vuole applicato nel microfono. Va bene anche un CD, va bene. Sì, CD ce l'hai. Ma se c'è il CD, anche a CD va bene anche la cosa da 1800. Scappa. Lo facciamo, dai, lo facciamo. Secondo me la carta di Taipo, la 87, c'è una bomba. E tu gli orari 10K. Anche il trimmer va bene, perché il trimmer lo regola come ti piace, dai, ti ascolti, fino a che lo regola la posizione giusta. Allora lo facciamo, dai, lo facciamo perché per migliorare. Ok, Fabrizio, ci sei? Sì, ti sto ascoltando. Pagamo, è entrato dentro un coso? No, non sono entrato, sto facendo, scrivendo due cose, ho caricato quello perché sto scrivendo due cose. Gappa, non c'è problema. Per esempio, in questo c'è, gli ho messo la 1008 la resistenza, capisci? Qua ci sta la 1008, la 1008 in questo CTE. Hai capito lui? Oggi non la prendo la moto sul microfono. È semplice, faccio una cosa semplice da fare, capito? Ma che a mamma lo dico? Però è che ci vogliamo con la chiesa a farlo, dai, è una minchiata a farlo. Poi che lo vede, adesso vedi Massimiliano lo fa perché lo vede, se le fa lui. Capito, l'ho fatto a Costanza, ne ho fatto già un casino questi microfoni, io ce li ho tutti così, elaborati così. Allora vedi che io me lo faccio a mio piacimento, io la voglio proprio di quelle che esce proprio forte, che si senta bella proprio la modulazione. Ma ti sto dicendo tu. Prenditi un trimmer da 10K, un trimmer, quello a tre piedi, prenditi uno di quelli, che va bene lo stesso. Allora facciamo così. Ma i cuffie ti metti? Già, non costa molto, anche se tu prendi un po' di resistenza, e poi prendi, tanto costa una minchiata. Non lo sai che mi regalo, ne ho migliaia di resistenze. Me le regali a me, Fabri. Io che sto sempre facendo prove e riprove, cose, dammele a me, un po', se ti capita. Sì, te ne metto, adesso ti scrivo a lui che ho preso uno stoffo in una marea, adesso ti scrivo a lui, glielo segna a te, è un po' tanto a me fare niente, aspetta, la storia tecnica le cerco. E se mi dici i valori, che valori c'hai? Eppure tu metti le serie parallelo e ti arrangi un po', se non sbaglio sono più o meno questi valori, aspetta che sto cercando. cosa. Allora, di così non scattò, adesso un po' di là, però fa dolore. Allora, ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono 8 valori. Uno è 213 kOhm, 241 megaohm, 7 kOhm, 12 kOhm, 100, queste vanno bene, 129 ohm, 26 ohm, 0,75 megaohm e 0,5 ohm, queste da 129 ohm vanno bene. E quelle le adopero pure io, le adopero pure io di quelle lì. Se capita a questi valori te la metto un po' però. Ascolta, per il LED tu che cosa adoperi? Quale valore adoperi per il LED? Quelle da, che so, sono le LED da 3 sono, giusto? Da 3. Ho sbagliato? Sì, da 3 sono le LED, giusto? Da 1 e mezzo? No, da 3 sono. No, dipende dal colore e dal tipo. Ah, tu dici che vabbè, bianco, blu, verde avranno lo stesso valore, ci vorrà lo stesso valore. Dipende dal modello, dipende da tante cose. Io addirittura c'ho un programmino per calcolarlo. Positivo, dai. Ma io più o meno metto sempre le stesse, Fabri. Per colore, o blu, o bianco, o giallo, o verde, metto sempre i stessi colori, o rosso. E già cambio, perché sono diventato qua corrente, capito? Dai. Valori, dai. Cioè, per esempio, un attimo, ti faccio un controllo una cosa. Eppure l'avevo voluto provare, non se esce bene, guarda, troppo contento, la gaffa. Ok dai, Gianluigi e anche a te Fabrizio, ce la ricentiamo, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Allora, per esempio, quelli bianchi dovrebbero montare, però quelli rossi, quelli gialli, secondo il colore, se lo puro io c'ho un problema, e poi c'è l'altro giorno, io volta che metto a fare un apparecchio, il problema della memoria, devo avere sempre scheda in mano e numeri, valori, e devo sempre riguardare, non mi ricordo niente, se cosa vuol dire non ricordare un numero di tre, ma un problema mio che ho sempre avuto da, aspetta, da ragazzino, a dire che sono mai riuscito a memorizzare un qualcosa come i numeri, qualcosa, meno male che anche un po' prendevo bravissimo, andavo benissimo, quei concetti cosa bastava poco, però nominare prendevo bravissimo adesso in fisica, ero bravo in storia, bravissimo, però nominare, non mi dovevano dare, come si può dire, date da memorizzare, capito? Se no uscivo di testa. Allora, praticamente da un kOhm tu penso che la metti per quello bianco. Ho capito, ho capito. No, adesso per esempio bianchi mi pare non ne ho messo neanche uno. No, bianchi no. Sì, le bianchi me ne sono preparato un po', dall'altro giorno me l'ho fatte, gliel'ho messe da quanto? Sì, da uno, sì, bravo, da uno gliel'ho messe, dai, gliel'ho messe da uno, sì. Da uno che sì, io se un test non è tanto buono, cosa mi dà 100 a me, però è da uno. Sì, da uno un chilo, l'hai messo sicuramente. Quelli bianchi vanno un chilo, buio, poi secondo il video giustamente cambi 800, mi sembra, non so se non ricordo, o così o non mi ricordo, infatti c'è una vita di segnarmi tutto e via, capito? Di quelli sta a 100 da un chilo, ne ho da uno, ne ho una bustina, ne ho tutti trovati che ho smontato, che tolgo, che sto sempre smontando, capito? Da quando so cosa sto buttando, me le tolgo tutte, guardo i valori, allora siccome io li adopero quasi per tutti i colori, quelle lì, anche per il blu, li metto quelle lì, e ho visto che va bene lo stesso. E allora li metto tutti dentro, le prendo dentro una scatola e capito, li tolgo quelli, poi ci sono certi valori che non mi interessa, lascio perdere, li butto tutte e tutte assieme da una parte, però quei valori lì diciamo li tengo perché faccio molte, cambio molte le cose, le lampadine di illuminazione, cose varie, dai, e niente, le conservo, a volte viene qualche amico una cosa e si è bruciata, allora prendo, siccome ne ho una di questi LED, ne ho buscato un bel po', dai, me ne aveva regalato anche Giovannino l'originale, aveva un bustone, me ne aveva regalato di quelli blu, e a volte quando non ce l'ho trovo altre lampadine di altri colori, allora metto quelle blu, dai, illumino di blu. Però adesso man mano che questi giocattoli di mio nipotino si rompono, quelle pistole, quei fucili che fanno tanti colori, tanti led, ne hanno un sacco di led di tutti i colori, io quando sta buttando via, cioè buttare, prendo e gli tolgo tutti i led e cose, li metto dentro una bustina e butto la rimanenza e li conservo. A volte ho fatto questo apparato, per esempio, gli ho fatto il display che l'ha bruciato, gli ho fatto un verde, c'ha un colore spettacolare, gliel'ha fatto con una lampadina di quelle di verde, ma fa un colore spettacolare lo Smith. E c'è bello, c'è bello, ce l'hanno bello, se hai una buona idea puoi recuperare in genere, recupero un po' qua, non mi serve, lo compro, prendo, se no mi incasino troppo. È positivo, positivo. Poi se tu guardi quando nell'illuminazione sono talmente minuscole quelle resistenze, sono talmente piccoline, Fabri, che non riesci neanche a prenderle, prendo la pizzettina, quelle che mettono nell'illuminazione del 48, l'hai visto? Quando sono proprio mini, insomma, ci vuole una pizzettina di quelle piccoline per prendere, per poterle per poterle mettere, ragazzi. Io ce l'ho presente. Comunque, allora, qui ragioniamo così, Gaia, che ore sono fatte, Michele, 11:20. Michele di giorno sono crepato, di notte non mi viene sonno, E anzi, io dirò, stanotte non ne ho sonno, Però io devo fare il mio riposo adesso, non lo so, di stanchezza di sonno, no, sai, guarda, adesso mi è passato il sonno, però prima ero seduto, ero nel divano e guardandomi la televisione, ecco, la televisione mi fa subito sonno, il divano forse mi fa sonnolenza, e allora mi stavo andando per correccare, ho acceso un attimino la radio qua e ho sentito a voi, là. Se no ero già, mi stavo già andando a letto. Anche io mi stavo da poco fa, ma un'ora sto andando qui tra uno e tra l'altro e mi sto trattenendo, per la verità facendo una cosa di due con il computer, una cosa alla fine, sembra così, ma alla fine che ho detto ben 12 minuti e ci sono 2 ore. È positivo, dai. E allora ti lascio andare anche io, mi vado in riposo adesso. Mi riposo e niente, domani è festa, nuovamente ci riposiamo di nuovo. E io una buona domani sera, quindi. È positivo, dai, sperando che non piova, faccia brutta giornata pure domani, speriamo di no. Speriamo bene, speriamo bene. Fabri, comunque te l'ha detto Fabio, che stiamo riorganizzando quella dell'anno scorso, del raduno dell'anno scorso. Sì, me l'ha detto, io voglio sapere anche in anticipo che devo organizzare, no? Sì, Fabio, stiamo valutando un po' la cosa, dai, stiamo valutando un po' il posto, stiamo facendo un po' di preventivi di menù e di cose, vediamo, siamo in poche parole, siamo in 3, in 4 siamo, che la stiamo organizzando nuovamente i 4 dell'anno scorso, dai, gli stessi 4 dell'anno scorso, e per me, a me mi hanno sempre giudicato il nonno, che l'idea è stata un po' la mia dell'anno scorso, e niente, stiamo vedendo comunque, io ho scelto il 21, dico la verità, il 21 luglio di sabato, comunque confermiamo tutto, sia la data che tutto, e anche il posto là dove si farà. Vabbè, arrivo a Dino, non vorrei stare perché il 21 luglio è il giorno che vado in ferie, che c'è. E quindi non so, vediamo un po' la sistema, o forse che rientro, non ricordo, forse rientro il 21, perché il 21 rientro, me la metto più, non so, vabbè, comunque forse rientro, però minchia, non so, vabbè, comunque cerco di rientrarmi. Poi già farò, già facciamo tutto, diciamo, dai, adesso stiamo parlando del 21 luglio, perché io devo andare, io il 7 vado, sono a quello che rappresento io, anche quest'anno lo rappresento io, la Sardegna, ogni anno sto rappresentando io la Sardegna su a Borgo Manero. Di solito siamo intorno ai 400 lì, è già da anni che ci sto andando, e anche l'anno scorso, l'unica volta che sono mancato è l'anno scorso, e invece quest'anno ho già fatto il biglietto dell'aereo, tutto quanto, c'ho già pronto. Il 7 luglio sono a Borgo Manero a Milano per il raduno grosso, quello grande, capito? Buono, bella cosa, bella storia, vedi? Quello ci vado sempre, ci sono andato già altri anni, non so se ti ricordi, l'unico anno è l'anno scorso che non ci sono stato, io non sono andato e sono mancato, però quest'anno ormai abbiamo fatto il biglietto, e siamo nuovamente i soliti due famosi. Da vedere c'è anche Tommaso da Cagliari che viene quest'anno e niente, però diciamo anche quest'anno rappresento la Sardegna anche lì, dai, come ho fatto gli altri anni e lo faccio anche quest'anno. Poi bella storia, comunque ti ho informato, spero di riuscire a venire quest'anno, va bene, alle prossime ci sentiamo domani se si può coincidere.